24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi abbiamo parlamentari sufficienti per tenere in vita il governo. Virgola, ma anche viceversa. E punto. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, febbre che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Eccoci qua, Alfano, virgola, punto, e viceversa, due punti. Ma come ha letto? Ma vi rendete conto? Virgola e viceversa, punto. Alfano, oh, sveglia, sono le 6:34 minuti, questo è 24 mattino, buongiorno a tutti, è venerdì, si chiude oggi la 30ª settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 30ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ah, noi domani siamo in diretta, domani non c'è il meglio di 24 mattino, cioè siamo in diretta dalla Fiera di Milano, forumagenti.it, volete vederci, venire a vederci nel pubblico, potete su Radio 24 4.it iscrivervi e ci conosceremo, venite domani in massa. Voglio subito aprire il Parlamento salutando Miriam Lucchetti, l'alpino Peter Bescapè, Nicole Minetti, tutti. Eccola la bella Nicole. E poi voglio salutare il neo segretario nazionale della Lega. È caduta la linea. Appena lo. Vabbè, allora voglio andare, forse in Asia, a salutare Albertone Forchielli. Buongiorno. Ciao Lino, ciao. Da dove? Da Hong Kong, immagino. Hong Kong, sì. Hong Kong, viva. Allora Albertone, ti presento il neo segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini. Buongiorno Matteo, eccoci. Buongiorno, no, ma non sono neo. Ah no? No, non è, dobbiamo ancora votare. Ah. Le primarie il 7 dicembre, però ringrazio per la stima e la fiducia. Vabbè. No, perché vedevo, insomma, questo scontro generazionale Salvini-Bossi, la davo così, 10 centesimi li punterei su Salvini, ma 10 centesimi. Partita finisce quando arbitro fischia. Questo è vero, partita finisce quando arbitro fischia. Allora, oggi i giornali sono di una noia mortale, soprattutto per quel che riguarda la politica. Ma vorrei sapere da Alberto Forchielli, visto che l'ultima volta che ci eravamo sentiti Berlusconi era in Parlamento, adesso dice non ci metterò mai più piede, neanche se mi invitano per una ricorrenza, mai più. Insomma, lo sgarbo è stato talmente grande. Quindi editoriale di Forchielli su quello che è successo in Italia dall'ultima volta che ci siamo sentiti, Forchielli. Sì, a condizione che sia l'ultima volta che parliamo di Bungasconi. Va bene, va bene, l'ultima. Okay. No, poveraccio, avrà bisogno di una buona dose di Lasonil, perché con tutte quelle decadute, prima da senatore, poi da cavaliere, si è andato tutto macato. Ma poi, a parte questo, la staff internazionale è ai massimi, se all'estero è visto come un 25 luglio questo, mentre in realtà non lo è. Sì, è successo qualcosa, personalmente sono molto soddisfatto, ma c'è tantissimo da fare, e non è che questi che sono rimasti siano così idonei. No. E infatti adesso devono andare a fare un giro in Parlamento. Mi sono goduto questa mezz'ora, perché per me sono 20 anni, capito? Certo, è stata una soddisfazione, però guardando avanti cambia qualcosa nella percezione del mondo, ma rispetto all'Italia, ma loro sovrastimano l'effetto di questa caduta. Sì. Ma un titolo sull'Hong Kong Post, un titolo su Berlusconi ci sarà stato, no? Sì, no, ma tutti i giornali, è stato finalmente l'ignobile, proprio con titoli terribili, capito? La caduta dell'ignobile Berlusconi, no, è stato un coro unanime. Proprio di disgusto, disprezzo. Addirittura. Questo non vuol dire, se a questo non. Sì, cambia un attimo, ma no, questo non vuol dire che quelli che sono al volante adesso sappiano dove andare, sappiano cosa fare, abbiano il coraggio di fare le cose, abbiano i numeri per fare le cose. Per fare le riforme servono delle maggioranze che non ci sono, per cui bisognerà comunque mediare di nuovo con quell'affare là, per cui... Che è l'affare là? Che è l'affare là? Ma non ho più voglia di nominare il nome. Ah, va bene, ma non ho più voglia, non so. Salvini invece ha voglia di nominare... No, ma cosa sta succedendo in Italia in questo momento? Che roba stantia, il passaggio parlamentare? C'è un bagno di ipocrisia totale, nel senso che è caduto il mostro Berlusconi, adesso dovrebbe andare tutto meglio. Ma do solo questa chicca da paese, da quarto mondo. Cioè, al governo ci sono quelli che giocano alle tre carte all'autogrill, cioè quelli che ti fottono la donna vince e la donna perde, hanno coperto la seconda rata dell'IMU con un aumento dell'acconto di IRES e IRAP per le società al 130%. Sì, sì. È uno Stato che toglie una tassa trovando la copertura finanziaria, mettendo l'acconto, è la prima parte del versamento di una tassa, a sì, casa mia, sì. Sul vocabolario. Se uno mette un acconto del 130%, vuol dire che è un ladro, è un truffatore, è un taroccatore, perché vuol dire che chiede di più di quello che dovrà chiedere in tutto l'anno e poi dovrà dare dietro qualcosa. Quindi siamo veramente... al mercato dei tappeti di Marrakech, 10 euro, no, 5 euro, no, 3 euro, il tappeto mio è più bello. Al governo ci sono dei venditori di tappeti taroccati. È un po' così, nel senso, sposo la linea Salvini su questa vicenda dell'IMU. Forchielli, non so, non voglio neanche più parlare dell'IMU, perché è un'altra di quelle. Sì, è stata veramente... Poi sono venuti fuori questa nuova tassa, la IUC, che sembra il nuovo modello della Nissan, no? Un po' così. Però che il paese si sia fermato per 8-9 mesi per discutere su questa vicenda dell'IMU, facendo, fra l'altro adesso creando un problema enorme con i sindaci, per cui è un po' una vergogna, no? Sì, è chiaro. È stata tutta un'enorme finzione. Perché poi i soldi entrano da altre parti, capito? Quindi il paese si è fermato. Non stiamo facendo le cose che bisognerebbe fare per essere competitivi sul mercato internazionale. Sul paese, Forchielli, sul paese ha scritto... Dire, capisco che i nostri politici non vanno all'estero, non si rendono conto del grado di arretratezza a cui siamo relegati. Nei test PISA scolastici siamo numero 25 sui top 25 paesi dell'OCSE, ma hai capito, basterebbe andare a Porretta a capire quanto siamo caduti in basso. Però cos'è Porretta? Dov'è Porretta? È una città in provincia di Bologna, ci sono le terme. Voglio dire, basterebbe andare a Porretta a vedere come siamo messi, però non sono lì che discutono, ogni giorno si inventano un nuovo nome di tasse, acconti, coperture, discutono sui 50 lire, invece sono dei problemi enormi. Voglio dire, che si muoia, che si vada alle elezioni su proposte importanti, coraggiose. Io sono sempre stato un fautore della patrimoniale, sono un fautore della semplificazione amministrativa, per cui il TAR, il Consiglio di Stato, li annullerei. Chiaramente farei una riforma del lavoro e lo renderei molto più flessibile, come hanno fatto in Spagna. La Spagna sta riprendendo molto meglio di noi, però a parte questo è una roba fine a se stesso, tutto in nome di questa stabilità che non crea nessun progresso. La stabilità, a proposito di questo, ma Salvini, voi volete sempre far cadere il governo, no? Ma tanto la Lega cosa conta? I numeri non... Guardi, onestamente mi convinco sempre di più che a Roma il problema ormai non sia più tanto a Roma, dove fanno i passacarte, quanto a Bruxelles. Quindi il nemico è l'Unione Sovietica, Europea, eccolo, e l'euro. Eccolo lì, con tutto l'euro. Rispetto per Letta, anche se ci fosse Gesù Bambino al governo in Italia, con le regole, coi vincoli e con le follie, con la moneta che ci hanno imposto, neanche Gesù Bambino riuscirebbe a fare molto meglio di Letta. Poi Letta è peggio di Gesù Bambino, per carità di Dio. Però, ma la Lega vuole far cadere, la Lega prende atto che almeno in Lombardia tutti i sindaci, dall'estrema destra all'estrema sinistra, hanno il bastone in mano e sono pronti ad andare in Parlamento a prendersela con chi è al governo, perché stanno massacrando i comuni, no, non i sindaci della Lega, c'è Pisa. No, no, ma è chiaro, ma anche Fassino. Sì, è vero. È vero, tutti. Però io non so, vorrei, poi non lo citiamo più, Forchielli, promesso, ma questa storia della grazia, secondo te, veramente Berlusconi, insomma, confidava che Napolitano desse la grazia? Sì, basta, Napolitano aveva varie alternative, poteva dare una grazia, dare una graziella o dare un grazie al cazzo. Fortuna ha resistito, ma ti ripeto, Alino, questo non è il problema, ma non è neanche il problema di Bruxelles. Il problema è che in questi 20 anni sono successi due fatti: la caduta del muro di Berlino nei primi anni 90, l'ingresso della Cina nel WTO all'inizio del 2000, e il paese non ha fatto nulla per adeguarsi a un mondo che è completamente cambiato. Capito, Forchielli, però. Io credo che l'ignoranza, il basso senso civico degli italiani è un male che abbiamo in comune, come un parente scemo, ci tocca sopportarlo. No, io prima di prendere dopo ti criticano dopo, Forchielli, dopo. Cioè, che me frega a me tanto, capito? Non so neanche se arriva l'Italia in giugno, che facciano, capito? Ormai è 60 anni, cosa mi fanno? Cioè, cosa fanno? Beh, guarda, non ho mai versato un contributo, io fin da ragazzo non ho mai versato una lira di pensione perché sapevo che non l'avrei mai vista, quindi non ho mai pagato un contributo. Non vivo in Italia, cosa mi faranno? Ogni tanto mi mandano dei tweet al vetriolo, però voglio dire, Bruxelles, naturalmente la politica imposta dalla Merkel è odiosa. Quindi su questo sono d'accordo con Salvini, però se prima non ci guardiamo allo specchio noi e non capiamo quanto siamo degradati, capito? Che non capiamo che insistere nel cercare di mettere a posto il paese con 2 lire di IMU quando ormai siamo tragicamente non competitivi è veramente sì, se oggi apriamo il giornale è un paese rincretinito, io non so cosa farci. Se oggi apriamo il giornale vediamo che c'era il benzinaio che andava in Ferrari testa rossa a accompagnare la figlia all'università e la figlia dichiarava di essere indigente, guadagnava 19.000 euro l'anno e per questo aveva le agevolazioni all'università. Ecco, questo è anche uno spaccato dell'Italia, su questo concordo, se questa è l'Italia, allora ci teniamo tutto. Il traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Caro Milan, ho visto la mitraglietta, cioè mentana, che era di una contentezza, credo che abbia raggiunto un grande orgasmo, lui come tutti i suoi amici. Nato, che parlavano di 20 anni del Duce. Cresciuto che parlavano di Andreotti e poi arrivato a 60 anni dopo 20 anni parliamo ancora di Berlusconi. Se questa è l'Italia andiamo veramente male. Tre personaggi di cui abbiamo parlato tutti i giorni: Mussolini, Andreotti e Berlusconi. 27 novembre alle ore 17:42 il Senato della Repubblica ha messo alla porta definitivamente il più grande truffatore che l'Italia abbia avuto. Oh Berlusconi, guarda che tu non incanti più nessuno, cantavi sul palco siamo pronti alla morte, ma tu sei come quello che urlava armiamoci e partite, e a tutti i pecoroni che ti sono dietro io dico che Berlusconi è come quel pastore che ama le sue pecore solo per ingrassarle e poi macellarle. State attenti. Falchi, colombe, e mi sembra ma dei bei tacchini all'ingrasso, ma verrà il Natale che ce li cuciniamo. Se facessero la guerra, la mafia, la camorra, la 'ndrangheta come l'ha fatto Silvio, nel giro di 6 mesi le estinguerebbero. Milan è un istrione e la teatralità è nata insieme a lui. Procurategli voi sei quotidiani e poi il genio si vedrà, si vedrà. Sì, vabbè, insomma, apriamo proprio tutte le case, Salvini, apriamo proprio tutte le case. Allora, io, Salvini, allora, conosce un certo Roberto Cota dalle parti della Lega, perché questa storia qui sta un po' venendo fuori, no? Il dono dell'ubiquità anche di Cota e dei consiglieri, sta storia degli scontrini. Non è una bella gatta da pelare questa, Sì. Io ho letto i titoli, devo essere onesto, perché gli ultimi due giorni non mi hanno lasciato particolare tempo né per seguire le vicende di Berlusconi né per seguire tutto il resto dei giornali. Se è così non è sicuramente una bella situazione. E gli abusi vanno, qualora ci siano, vanno puniti da tutte le parti provengano, evidentemente. Ma metterebbe una mano sul fuoco per questa vicenda su Cota, la metterebbe? Io Cota lo stimo per quello che ha fatto, le mani sul fuoco ho smesso di metterle quando avevo 6 anni e il mio principale amichetto mi ha fregato il pallone, e quindi le mani sul fuoco me le tengo per le castagne. Detto questo, mi sembra che ci sia, al di là degli abusi che ci sono, lo diceva anche Forchielli, non è che quando io o la Lega attacchiamo Bruxelles per autoassolvere le porcherie che ci sono in Italia, gli sprechi, le truffe, le furberie, per carità di Dio, anche in casa nostra abbiamo un sacco di problemi da risolvere, che però ci sia un attacco pesante nei confronti di tutto quello che non è stato, e prima le province e poi le regioni, poi toccherà i comuni, questo il dubbio me lo porta, perché fra Piemonte, Lombardia e Veneto comunque ogni anno come residuo fiscale, ovvero sia come tasse pagate in più rispetto a quello che sono indietro come servizi, lasciamo giù allo Stato centrale 80 miliardi di euro. L'attacco a tutto ciò che è inti locale. No, non sono un complottista, però che ci sia un disegno e prima chiudi le province e poi accorpa i comuni, e adesso le regioni non servono un fico secco e parte il Corriere della Sera. Tutto quello che parte del Corriere della Sera mi puzza. Ai. Allora, per concludere, Forchielli, ci salverà il PD? Stasera c'è il confronto tra i candidati, su Sky. Guardi, secondo me Renzi, Cuperli, Civati hanno detto tante di quelle cazzate che per uscire dalla merda in cui si sono impantanate devono montare le termiche, sperando di averle ridotte. Se lei spera che da quei tre lì venga fuori l'uomo del futuro, allora continua a sperare lì. Ma l'altra volta ha detto che Renzi era almeno peggio. Sì, ho capito, se devo votare, capito, alla fine chi voto, capito? Ovviamente... Cuperlo è figlio di un sistema che ha fallito 500 volte, capito? Ormai non è credibile un sistema. Tra Renzi e Civati comunque inculati, delle due Renzi comunque sembra avere un attimo più di piglio. Poi secondo me è uno showman, non è un uomo di grande sostanza, però non ho nessuna fiducia che sappiano, abbiano la forza di... Per me non mi aspetto niente, anzi delle due guardi Lino, sarei anche contento di avere un centrodestra sobrio e moderato, senza mascheroni da oba a oba o rettili dell'ultima ora, capito? Sarebbe anche ora che emergesse un centrodestra. Naturalmente la borghesia italiana è abbastanza tracciona, perché è rimasto poco, dopo il fascismo e la fuga del re è rimasto poco, però almeno delle due quasi mi auspico che dalla caduta di questo essere qui possa nascere un centrodestra di civile, un qualcosa che dia speranza a centrodestra. Va bene, vi devo salutare, sono di fretta, Forchielli, Salvini, grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci alle 7:21 minuti, eccoci qua pronti a leggere i giornali, cari amici, cari debosciati che vi siete svegliati ora. anche l'alpino Peter Bescafè fa un gesto d'assenso, dice ecco, bravo, dillo chiaro e forte. Allora siamo pronti qui a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di questo nuovo tentativo per il contributo di solidarietà alle pensioni d'oro. Le pensioni d'oro, poi cosa vuol dire la pensione d'oro? Vi sentite proprietari di una pensione, beneficiari di una pensione d'oro? Cari italiani, dove mettere questa asticella? Il governo ci riprova a mettere un prelievo di solidarietà alle pensioni d'oro, cosa che in passato è stata fatta, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Ne parleremo con il senatore del PD Giorgio Santini, che è relatore al Senato della legge di stabilità, e con quel giudice, ve lo ricordate, quel giudice che già diede il via al ricorso contro il taglio alle pensioni d'oro e ebbe ragione. La Corte Costituzionale gli diede ragione già una volta, perché era un prelievo considerato anticostituzionale dalla consulta. È l'ex magistrato presidente di TAR Giuseppe Bozzi che abbiamo richiamato per capire se anche questa volta ci proverà a bloccare questo tentativo di prelievo alle pensioni d'oro. Ne parleremo più avanti, ora la lettura dei quotidiani. Questo venerdì 29 novembre sono due le notizie principali che trovate sulle prime pagine dei giornali. La prima è quella dell'IMU. Caos IMU sulla prima casa, il Sole 24 Ore. Per il Messaggero, IMU, mini stangata a gennaio. Ovviamente la stangata è ai cittadini, eh? Il Giornale, truffa sulla casa. Libero, ecco i comuni dove l'IMU si paga. Avvenire, IMU grana infinita. E poi la vicenda politica, verifica in aula per il governo, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, Napolitano, Letta torni in Parlamento. Per La Stampa, Letta richiederà la fiducia. Il Fatto Quotidiano, la decadenza di Letta. L'Unità, respinto l'assalto al Colle. Il Secolo XIX, Letta torni in Parlamento, mentre il Manifesto mette due foto identiche di Enrico Letta. Il titolo è Copia in Colle, dove si gioca con la parola colle, dunque il Quirinale. Questi titoli, come vedete, due le notizie principali scelte dai giornali, ma continua la saga della vicenda Regione Piemonte. Davvero ogni articolo sembra più incredibile di quello del giorno prima. Per quel che riguarda i rimborsi dei consiglieri regionali, oggi si mette Repubblica a rovinarvi il weekend. No, non ve lo fate rovinare da queste quisquiglie, ma tenete le mani ben strette sul volante se siete alla guida, cari ascoltatori, perché riunione negli USA, pranzo a Torino. Ora negli scontrini di Cota e Company spunta anche il dono dell'ubiquità. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 14. Ebbene sì, in Piemonte pare avessero molti il dono dell'ubiquità, che vuol dire sto qui, ma metto a rimborso uno scontrino là, l'ubiquità. Maria Chiara Giacosa e Sara Martinenghi su Repubblica hanno il dono dell'ubiquità, quella grazia che consente ai politici piemontesi, tra cui il presidente Cota, di essere contemporaneamente in un posto e anche in un altro. Nel consiglio regionale dei 43 indagati per peculato e truffa sono in tanti a sdoppiarsi o a percorrere centinaia di chilometri a velocità forsennata. E allora 115 le contraddizioni contestate al presidente leghista Cota, i tabulati telefonici smascherano i suoi reali spostamenti, mentre scontrini e ricevute messe a rimborso lo vorrebbero in posti diversi. Un vizio tra i suoi colleghi, anche l'ex delfino Massimo Giordano, risulta nello stesso giorno a Parigi e in un cocktail bar a Ginevra. Pranza a Novara il 28 agosto 2010, ma sulle tabelle di presenza analizzate dalla Guardia di Finanza ha dichiarato di essere ad Aosta. E ancora più sorprendenti il panino, le gomme da masticare, i due caffè pagati con 25 euro in un autogrill sulla Torino-Milano, mentre Giordano è in missione a San Francisco, a 20 ore di volo da lì. E allora, tra le file del carroccio c'è anche chi come Antonello Angeleri decide di risiedere in un luogo e invece vive in un altro, scrive Repubblica. Non è un fatto di onestà, perché così facendo, secondo l'accusa, il consigliere ci guadagna oltre 20.000 euro di rimborsi chilometrici non dovuti. E ancora Daniele Cantore, PDL, anche lui indagato. Il 5 febbraio alle 16:20 ricarica un numero Vodafone a Chiusa San Michele alle porte di Valsusa alle 17:09, però è in città dove rimpingua altri due cellulari, un percorso che gli stradali online indicano percorribile in 36 minuti, ma è lui è rapidissimo a spostarsi. È rapidissimo, ancora più ardimentoso il viaggio di Roberto Tentoni, che in 18 minuti copre 96 chilometri tra Novara e Baldissero Torinese. E ancora Andrea Buquicchio dell'IDV è volato in Norvegia in compagnia della compagna per festeggiare il compleanno di lei, dice l'accusa. Una coincidenza non sfuggita agli inquirenti. La motivazione ufficiale del viaggio, quella di partecipare alla consulta per lo studio delle forme di energia del paese scandinavo. Peccato che abbia noleggiato un'auto a Sogndal, a 340 km da Oslo, in zona turistica nota per gli splendidi fiori, tutto certificato anche con foto su Facebook, finita negli atti dell'inchiesta, e in una zona in cui le centrali elettriche nucleari non ce ne sono. E vabbè, anche l'Unità dedica una pagina: Piemonte, dimissioni PD per dare la spallata a Cota. Cota sempre più in difficoltà. Avete sentito, anche alle 6:30 avevamo Matteo Salvini, probabile nuovo segretario della Lega tra qualche giorno, a dire: la mano sul fuoco, io ormai non la metto più con nessuno da quando a 6 anni il mio amichetto mi rubò il pallone, e quindi neanche per Roberto Cota. Ma d'altronde, cari italiani, è inutile che ce la prendiamo solo con la politica, con i politici. È inutile. Quando qualcuno dice che i politici sono lo specchio del paese e del popolo che rappresentano, forse tutti i torti questo qualcuno non ce l'ha. Perché leggete la notizia che c'è su tutti i giornali e che è ben titolata così: il papà gira in Ferrari, ma per l'università è povera. Titolo di Repubblica, pagina 22, ma anche il Corriere, il Messaggero, tutti i giornali fanno due pagine, il Corriere addirittura, su questa inchiesta: autocertificazioni false per avere le borse di studio, la finanza scopre irregolarità in 2 casi su 3, dichiaravano redditi irrisori per non pagare le tasse universitarie, beneficiare di borsi di studio, sconti su posti letto, mense, buoni per l'acquisto di libri, l'abbonamento ai mezzi pubblici, altre agevolazioni, i furbetti dell'università, il caso più clamoroso, scrive anche il Corriere, la figlia del benzinaio che viveva in una villa a 4 piani con piscina scoperta e veniva accompagnata dal papà in Ferrari e dichiarava 19.000 euro. E negli ultimi 3 anni il papà ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate di non avere conseguito utili. Un altro caso emblematico, un'altra studentessa romana di 20 anni, iscritta a Tor Vergata, dichiarava di guadagnare 14.000 euro l'anno, ma si è dimenticata che sul conto corrente aveva 600.000 euro. E con questo ovviamente chiedeva agevolazioni, quindi non solo truffava lo Stato, ma negava queste agevolazioni agli studenti davvero bisognosi. Quindi una doppia beffa, una doppia truffa. Allora, che dobbiamo dire, cari italiani? Ce la dobbiamo sempre prendere solo coi rappresentanti della politica, oppure siamo in parte, non so in quale percentuale mettete da voi, un popolo di farabutti e cialtroni? La pubblicità. 24 mattino. Allora, le 7:33 minuti, vi ho lasciato con questo dubbio: colpa dei politici o popolo, noi italiano anche in gran parte composto da farabutti e cialtroni? Devo dire che molti sms arrivano per giudicare più legittima e più azzeccata la seconda di idea. Comunque, la vicenda dell'IMU invece è una vicenda che sta scendendo tra il grottesco, l'incredibile, una cosa che io ripeto, dico, si va a raccontarla nel Burundi questa vicenda, cioè che da mesi si dibatte con titoli in prima pagina dell'IMU. In Burundi ti guarderebbero come si guardano dei deficienti, cioè dicono ma no, ma non è mica possibile che sia una cosa del genere. Eppure sì, ogni giorno c'è la sua pena per quel che riguarda l'IMU, che ancora oggi è titolo di prima pagina su molti giornali. E ora il caos dell'IMU è questo: i proprietari di 10 milioni di abitazioni principali rischiano in pratica di essere chiamati a pagare il 16 gennaio. Sono gli abitanti di quei comuni che hanno alzato l'aliquota nel 2012 oppure nel 2013 rispetto ai parametri standard, e non possono essere esentate questi aumenti dei comuni del tutto dal pagamento. Perché? Perché non ci sono i soldi, non ci sono i soldi per la copertura da parte dello Stato, che ha deciso di cancellare l'IMU, però ha detto vabbè, ma i comuni hanno aumentato nel frattempo le aliquote e non sappiamo che farci, e qualcosa dovrete pagarlo voi cittadini, e magari rivaletevi poi sui vostri comuni. Ovviamente i comuni sono arrabbiatissimi, come avete sentito anche in GR24, perché dicono così c'è uno scontro sociale incredibile. Comunque tutti i dettagli a pagina 3 del Sole 24 Ore. IMU dai cittadini il 40% degli aumenti locali, cioè il 40% degli aumenti decisi dai comuni dovranno essere pagati non dallo Stato, non dai comuni, ma dai cittadini. Ovviamente ci sono tutti i calcoli, io so che già i proprietari di casa chiameranno i loro commercialisti, che già non ci capiscono nulla perché è tutto un casino e ogni giorno cambiano le cose, insomma saranno 2 mesi di passione. Buon Natale ovviamente a tutti. Seconda rata IMU cancellata, così titola Repubblica. Anzi no, rivolta dei sindaci contro il governo. Fassino, capo dell'ANCI, dice: noi siamo esasperati. Racconta Valentina Conte: scontro aperto tra comuni e governo sull'IMU di quest'anno, i dissensi maturano da giorni ormai. E Piero Fassino dice: c'è rottura istituzionale vicina, chiedo al governo di onorare gli impegni pubblici presi sull'IMU, ovvero non far pagare sulla prima casa per quest'anno e non penalizzare i comuni del mancato introito garantito dallo Stato. Ci prova in qualche modo il sottosegretario Baretta, che è intervistato dal Messaggero da Andrea Bassi a pagina 3, dice: vorrei provare a gettare acqua sul fuoco e spiegare ai cittadini e tranquillizzarli. E racconta in questa intervista: tutti, comuni e governo, dovremo impegnarci a fare il massimo perché i cittadini non pagano. Il punto è che diversi comuni hanno avuto la possibilità di alzare l'aliquota dell'IMU sulle prime case di quest'anno. Non la voglio mettere sul piano del furbo o non furbo, conosco bene i problemi dei sindaci e dei bilanci. Il fatto è che comuni e governo, di comune accordo, hanno deciso di prorogare fino al 30 novembre la chiusura dei bilanci preventivi del 2013. Comunque tranquillizza, ecco la parte che dovrebbe tranquillizzare tutti voi cittadini. Ad oggi il decreto è ancora in fase di elaborazione e conviene attendere il testo finale, dice il sottosegretario Baretta. Nei comuni in cui l'aliquota è rimasta quella base del 4 per 1000 non si dovrebbe pagare nulla. Questo condizionale mi inquieta un po'. Se per esempio lo scorso anno invece il prelievo è stato portato al 5 per 1000, comunque non si dovrebbe pagare nulla. Altro condizionale, non si dovrebbe. Nei comuni in cui invece quest'anno sono state alzate le aliquote al 5 o al 6 per 1000 si pagherebbe, altro condizionale, la metà dell'incremento, quindi tra lo 0,5 e l'1 per 1000. Al massimo si verserà l'1 per 1000. E riguardo alle banche, che anche loro protestano perché gli sono stati aumenti, stati fatti aumenti e quindi sono sulle barricate per pagare l'IMU, capisco la reazione delle banche, dice il sottosegretario, ma abbiamo preferito non caricare sui cittadini nuovi pesi. Ma come? In realtà i cittadini pagano lo stesso. E poi verrebbe da dire: ma caro sottosegretario, se le banche sono oberate da spese per pagare l'IMU, secondo voi poi le banche in qualche altro modo su chi faranno ricadere queste spese maggiori che dovranno ottenere? State attenti agli estratti conto bancari, dico io, che magari spuntano qualche onere aggiuntivo così. Pisapia, sindaco di Milano, fa un'intervista a Repubblica: Letta non tradisca gli impegni o il Parlamento lo sfiducerà. È molto dura, ci siamo fidati, questo è un voltafaccia vergognoso. Mi auguro che sia lo stesso governo a modificare le decisioni dell'IMU, perché il rischio concreto è che su questo tema il governo cada. così Pisapia. Se si prende un impegno pubblico per iscritto e a voce, si mantiene. Non è giusto che siano i cittadini a pagare, faremo tutto quanto in nostro potere perché non accada. Insomma, Pisapia inizia così l'intervista con Repubblica, con Oriana Liso. I sindaci sono proprio alla guerra, come titola anche il manifesto a pagina 3 e 4 del, appunto, sul manifesto su questa vicenda dell'IMU. Vabbè, in tutto questo la politica cosa ci regala? Ci regala questo day after per quel che riguarda Berlusconi e Forza Italia, che è stata ricevuta al Quirinale da Giorgio Napolitano, e la decisione è quella di andare a un passaggio parlamentare. Dunque, sulla crisi, passaggio parlamentare, così titola il Sole 24 Ore a pagina 13. Prima o poi, probabilmente settimana prossima, Giorgio Napolitano, ha detto Enrico Letta, dovrà presentarsi alle Camere per vedere se ci sono i numeri, o comunque verificare in Parlamento la maggioranza. Insomma, sono quelle noie e noiose pastoie burocratiche e passaggi che non interessano ai cittadini, ma sono la forma, e la forma è anche sostanza, come si suol dire, per quel che riguarda la tenuta di governo. Ma prima di vedere le novità della politica, allora, abbiamo svelato il caos dell'IMU, il casino che c'è nell'IMU, ma c'è anche altro sul Sole 24 Ore. Voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Ci sono i comuni in rivolta, ma a parte questo, guardavo queste quattro pagine dedicate appunto alla vicenda IMU, però anche gli acconti, il calendario di dicembre, di gennaio. Mi veniva in mente quel film Quattro passi nel delirio. Abbastanza. Mi sembrava abbastanza indicato, non so se. Abbastanza. No, sì, c'è un discreto, una discreta confusione, ecco, possiamo dire con un termine tecnico. Abbastanza, direi. Però guarda, cerchiamo qualcosa di positivo. Allora, debutto in borsa di Moncler, un servizio all'interno di finanza per chi come te ha soldi da investire. Tu hai sempre questi 2 euro che insomma sono un capitale importante. Ecco, allora sei la persona indicata anche tu per leggere appunto i dettagli della quotazione. L'offerta è iniziata, potrebbe essere un investimento interessante, insomma, visto che non hai da pagare l'IMU o altro. E visto che arriva l'inverno, no? Devo dire, c'è anche questo aspetto stagionale. E poi, scusami, io devo fare radionorme, come ieri le rondini volano basse, devo dare un messaggio in codice ai nostri amici fiscalisti. Finanziamenti ai soci, abbiamo dei chiarimenti nella pagina di norme e tributi. La scadenza è il 12 dicembre, abbiamo dei chiarimenti sui casi dubbi. Per me sembra proprio Radio Londra questa. Comunque, il messaggio è arrivato a chi di dovere, è arrivato, caro. Ecco, non so come dire, consultate il Sole 24 Ore, se proprio scrivete soscommercialisti@il sole24ore.com/il sole24ore.com. Noi stiamo raccogliendo anche come dire, proprio le richieste di aiuto da parte della categoria, che effettivamente, visti appunto i quattro passi nel delirio, ha più di una incertezza in questo momento. Sono i primi, tra l'altro, quelli che dovrebbero spiegare a noi. Quindi e sono quelli più disperati, chiaro, perché sono gli ultimi a capirci in questo momento. In questo momento temo che siamo parecchio confusi, siamo tutti un po' confusi. Senti, buone notizie, Franceschini dice che comunque adesso migliorano la legge di stabilità alla Camera, tagli alla spesa, ci ridanno ancora qualcosa dal cuneo fiscale. Lo ha detto Fabrizio Forché, una lunga intervista, pagina 7 del Sole 24 Ore di oggi, una intervista che insomma, mi sembra abbastanza importante come impegno governativo, parlando seriamente. E questo assolutamente sì, l'intervista poi la leggete appunto di Fabrizio Forché a pagina 7. Io intanto, Mauro, ti ringrazio perché hai lanciato la questione della politica, e di politica ovviamente voglio continuare a parlare perché il day after, diciamo, dopo la decadenza di Silvio Berlusconi regala non solo questo passaggio parlamentare che Letta dovrà fare, come ha detto Napolitano, il retroscena più interessante sulla vicenda Berlusconi oggi lo trovate sul Corriere della Sera, firma Paola Di Caro, pagina 2-3. Berlusconi pronto alla campagna elettorale, io un leone, così ha detto ai suoi collaboratori. A chi gli ha parlato è parso combattivo e coraggioso, mi sento come un leone, non mi abbatto, nelle difficoltà divento ancora più forte. Voi pensate a fare opposizione al governo, perché anche se non abbiamo da soli i numeri per farlo cadere, dopo l'8 dicembre voglio vedere come Renzi farà a sostenere un esecutivo come questo. Tra l'altro, la tentazione di Silvio Berlusconi, che continua a dire da una parte sono un leone, dall'altra un po' la disperazione, già me li vedo le perquisizioni che mi arrivano in casa alle 5 del mattino e rovesciano tutto, violando la mia vita, violando il mio privato. Ecco, nonostante questi momenti di disperazione, sembra un leone e torna, rispunta una vicenda, una storia, un'idea che era già stata lanciata di recente, che è quella di candidarsi alle europee. E come si fa, visto che c'è la legge Severino, l'incandidabilità? Beh, si aggira questa cosa, basta prendere una residenza all'estero e candidarsi in uno dei paesi dove si votano le europee. Per esempio l'ha fatto, è diventato famoso, Giulietto Chiesa, giornalista che nel 2009 si propose e si candidò e venne eletto come europarlamentare candidandosi in Lettonia. Ebbene, racconta La Stampa, la tentazione di Berlusconi, una candidatura all'estero. Ugo Magri, a pagina 4 della Stampa, la legge Severino non avrebbe valore fuori dai confini nazionali, quindi fuori dall'Italia, per cui potrebbe in un altro paese dell'Unione Europea candidarsi, ovviamente dovrebbe spostare prima la residenza nel paese prescelto, una circostanza che anche La Stampa racconta è problematica alla luce della condanna di un anno da scontare, ma se si riuscisse ad aggirare questa cosa potrebbe candidarsi all'estero in modo da avere una sorta di immunità parlamentare. E poi ci sono dei retroscena spettacolari. Uno è quello di Mattia Feltri. Mattia Feltri, a pagina 5 della Stampa, racconta: alla corte del Cavaliere la vecchia guardia non ha più udienza. Da Gianni Letta a Bonaiuti si sono dileguati i consiglieri storici, nessuno li ha sostituiti. Berlusconi pare che voglia da domani rifare il partito, si parla di mettere il direttore di studio aperto Giovanni Toti a capo, si parla di mettere Adriano Galliani dal Milan lì dentro. E poi soprattutto c'è questa cosa straordinaria nell'articolo di Mattia Feltri: va meglio a Daniele Capezzone, che ha dovuto passare un dramma inenarrabile. Sapete qual è il dramma? Il dramma è questo, che aveva un problema con Dudù. Capezzone aveva un problema con Dudù, gli abbaiava sempre contro, mettendolo in cattivissima luce nei confronti del capo. Ma adesso pare che Capezzone, racconta Mattia Feltri, ha risolto il suo problema con Dudù. Capezzone è sveglio e ha corrotto la bestia a suon di, non so, croccantini, a suon di carezze, e probabilmente così ha risolto questo problema. Dramma passato, dramma ed esame Dudù promosso, e quindi Capezzone è tornato ad essere più vicino e più apprezzato dal suo capo Silvio Berlusconi. Il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Ora alle 7:49 minuti, sta di fatto che i numeri al Senato non devono essere molto larghi, di quelli che consentono a Enrico Letta di dormire sonni tranquilli tra tre cuscini, se è vero che il capogruppo al Senato Zanda ha scritto a tutti i parlamentari dicendo: le missioni e i congedi ora devono essere autorizzati. Insomma, il rischio è che ogni assenza possa essere decisiva, e il rischio è che quindi si possa andare sotto in qualsiasi momento, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 5, raccontando la mail spedita a tutti i parlamentari. Ma io voglio raccontare, ieri ce l'aveva anticipato anche Mauro Meazza, quello che hanno deciso di fare in Germania, dove Angela Merkel è riuscita a fare la grossa coalizione con l'SPD, e c'è un aspetto che magari è apparso marginale all'inizio di questo programma di governo, che è un programma ben articolato, ma è una proposta che oggi Libero e anche il Corriere della Sera mettono in risalto, dicendo: beh, ma perché non fare così? Per esempio, pedaggi agli stranieri, la Germania ci dà un'idea. Ecco cosa hanno fatto gli europeisti tedeschi convinti: Berlino farà farà pagare le autostrade solo agli stranieri. Non è proprio così in maniera definitiva, ma racconta Claudio Antonelli a pagina 15, la proposta è quella di un pedaggio autostradale solo per gli stranieri in transito. Obiettivo: finanziare i futuri cantieri di sviluppo infrastrutturale. Ovviamente tutto ciò va contro il diritto alla mobilità all'interno dell'Unione Europea. Allora l'inganno sarebbe questo: introdurre il pedaggio a per tutti, salvo poi restituire e rimborsare ai tedeschi, solo ai tedeschi, il costo al momento di pagare le tasse sull'auto. Così, insomma, non si fa una discriminazione al momento del pagamento. Sta di fatto che tutti i partiti durante la campagna elettorale avevano promesso fondi per l'ammodernamento delle infrastrutture in numerose tratte bisognose di manutenzione. Il costo complessivo è stato di 11 miliardi di euro e allora ecco che si è trovata questa idea. E Libero dice: perché non lo facciamo anche noi? Questa è un'idea buona, perché non li copiamo? Che ne pensate? Cari ascoltatori, in Germania pensano di fare così, fare un pagamento per le tasse, di tasse autostradali solo per gli stranieri. Trovate invece sui giornali ancora tanti articoli sulla vicenda che sembrava avere un'escalation poi forse scongiurata, e cioè il rischio di pena di morte per i nostri due fucilieri che sono ormai da tempo detenuti in India, accusati di aver ucciso due pescatori indiani mentre facevano la scorta a una nave commerciale. Era il febbraio del 2012, perché i titoli di oggi sui giornali è: Marò, ipotesi pena di morte. In realtà lo ha scritto un quotidiano indiano, l'Hindustan Times, ha rivelato che l'agenzia investigativa incaricata di istruire il processo contro i due Marò ha consegnato al Ministero dell'Interno un rapporto finale dell'indagine nel quale si raccomanda di applicare una legge che prevede, in caso di morte in mare causata da spari, la pena capitale. In realtà Emma Bonino dice: è esclusa questa iniziativa, è solo una proposta che verrà rigettata. Certo, però la moglie di Salvatore Girone viene intervistata dal quotidiano nazionale a pagina 3, l'angoscia della moglie: ho paura, ai miei figli vieto ormai anche la TV, i bambini sanno solo che papà è all'estero, ora il governo faccia di tutto per riportarli a casa, perché ci chiedono tanta pazienza quando ne abbiamo già avuta tantissima. Vabbè, voglio andare alla chiusura con il momento della premiazione per l'articolo più inutile scovato sui giornali, vale a dire il premio La Carta Costa, e oggi stravince sul giornale Simonetta Caminiti per un'intera pagina dedicata ai 40 anni di Bic, l'accendino usa e getta che continua a godere di ottima salute e si accende di entusiasmo. Pensate un po' come quando i 40 toccarono a Tom Cruise. Un altro piccoletto focoso da maneggiare con cura. Simonetta Caminiti, c'è anche un tocco, come dire, di qualche spia rossa che si accende, ma questo le candeline se le accende da solo, per definizione. Inclina la testa e gli parte la fiamma. Stiamo parlando di un accendino, un'intera pagina sul giornale. Vi rendete conto che la carta costa? Ma alcuni non se ne rendono conto. E vabbè, continuiamo così, il giornale radio. Mattino. Siamo qui cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Quando sono le 8:20, allora ci riprovano della serie Ci riproviamo, un po' in silenzio, un po' sotto traccia, ma sui giornali in realtà qualcosa è uscito. Il governo torna e prova a tornare a mettere un prelievo di solidarietà sulle pensioni d'oro, le cosiddette pensioni d'oro. Poi bisognerebbe discutere che cosa siano esattamente, quale sia l'asticella per stabilire quando una pensione sia d'oro. Allora, nel prossimo triennio, questa è l'ipotesi, scatteranno prelievi prelievi di 6%, prelievo di solidarietà per chi guadagna i 90.000 euro lordi l'anno di pensione, se si guadagna invece 128.000 euro è salito, il prelievo sale al 12%, se si guadagnano 190.000 euro il prelievo è al 18%. Ci riprovano, dico, perché ci avevano già provato, non era andata benissimo, ricordate lo scorso giugno ne avevamo parlato anche qui, la Corte Costituzionale aveva bocciato il contributo di solidarietà, ovvero questo prelievo sulle cosiddette pensioni d'oro, e lo aveva fatto accogliendo il ricorso del gruppo romano dei giornalisti pensionati e di un ex presidente della Corte dei Conti, ex presidente di TAR, Giuseppe Bozzi, che è nuovamente con noi. Dottor Bozzi, buongiorno. Grazie di essere nuovamente qui. Voglio salutare con lei anche il senatore del PD Giorgio Santini, che è relatore al Senato della legge di stabilità. Senatore, buongiorno. E ben trovato. Allora, ci riprovate, senatore Santini, perché questa volta la Corte Costituzionale non avrà nulla da dire secondo voi? E perché il motivo di questo prelievo di solidarietà? Perché è giusto secondo voi? Allora, guardi, nel testo della legge di stabilità che è entrato al Senato e che adesso andrà anche alla Camera, il governo aveva inserito il contributo di solidarietà in una forma che sostanzialmente iniziava a 150.000 euro annui. La valutazione della nostra commissione e poi anche dell'Aula è stata quella di tornare sostanzialmente a questo contributo di solidarietà, intanto con un inizio sopra i 90.000 euro e con aliquote che lei ricordava, sì, leggermente superiori anche a quelle dello scorso anno. E perché? Perché, come credo sia di tutta evidenza, e con l'obiettivo di cercare di dare sostanzialmente una mano in termini di risorse alla parte più bassa, diciamo così, dei trattamenti assistenziali e previdenziali. Cioè, per fare il contributo, quindi, di solidarietà a chi guadagna di più per aiutare chi guadagna di meno. Questo è sempre nell'ambito delle prestazioni di tipo assistenziale e previdenziale. Questa è la differenza rispetto al vecchio contributo di solidarietà che è stato giudicato appunto incostituzionale, cioè il fatto che questo meccanismo rimane un meccanismo all'interno dei trattamenti previdenziali e assistenziali, e in questo senso è una forma proprio di solidarietà e non, questo certo, di perequazione. Però, senatore Santini, voglio solo precisare, solo questo un attimo, sì, che con questo intervento in realtà che ha due caratteristiche che lo rendono meno, come possiamo dire, pesante di quello che appare. Innanzitutto avviene sulla parte eccedente dei 90.000 euro. Sì, certo. Perché detto come così può sembrare un taglio, come diciamo, in profondità. Invece facciamo l'esempio: se uno prende 92.000 euro all'anno, paga il 6% sui 2.000 euro. Solidarietà sui 2.000 euro. Certo, ma questo anche credo in passato fosse così. Però, senatore, forse anche in passato. No, l'altra cosa è che la platea coinvolta è una platea veramente ristretta, stiamo parlando, io prendo a riferimento gli ultimi dati che ho a disposizione, fino a 90.000 euro ci sono il 99,24% dei pensionati italiani, esattamente 15.212.000 persone, e la parte eccedente va da questo a 15.329.000 persone, che stiamo parlando di una platea di poco più di 100.000 persone che hanno avuto il merito sicuramente nella loro vita lavorativa e anche un po', diciamo così, le condizioni per poter avere una pensione bella sostanziosa. Quindi si tratta di, diciamo, in grado di poter dare una mano anche a chiaro, un prelievo che interesserebbe circa 100.000 persone, quelli più fortunati, ma anche quelli che fortunati nel senso che hanno lavorato, hanno guadagnato tanto per poter avere una pensione molto più alta. Però, e qui vorrei coinvolgere il dottor Bozzi, l'ultima volta ce l'avevamo sentiti, lei aveva fatto questo ricorso, non solo lei, e l'aveva vinto. Siamo stati circa 500 magistrati, magistrati amministrativi che ordinari, ed anche gli stessi magistrati. E io mi ricordo che ci furono anche critiche, molti messaggi, molti ascoltatori, ecco la casta che si difende. Intanto ci dica, farà ricorso, farete ricorso anche questa volta? Se diventa legge sicuramente, perché io ho sentito bene che cosa ha detto il parlamentare, l'onorevole che ha parlato sì. prima di me, il quale ha fatto un discorso che socialmente ha la sua importanza. Però il problema dal punto di vista giuridico è completamente diverso ed è identico a quello che ha consentito, che ha, diciamo così, che ha spinto la Corte Costituzionale a bocciare, a dichiarare la illegittimità costituzionale di quel provvedimento. Cioè, che cosa sono i diritti acquisiti? Non si toccano? No, la motivazione è duplice. Una, che le pensioni sono un trattamento economico, diciamo così, successivo, ma che abbiamo ognuno di noi si è guadagnato lavorando, e poi che non c'è stata una diciamo così una questione di intervento anche nei confronti degli altri chiamiamoli ricchi, va sì. bene? Ah, quindi è discriminatorio, nel senso che si va a colpire alcuni ricchi e quindi, altri no. E quindi la Corte Costituzionale ha annullato, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quel provvedimento, quello con una sentenza del 2013, quindi sì. recentissima, dicendo innanzitutto che non c'era un principio di solidarietà, che non era assolutamente stato considerato. E poi che c'era un principio, era stato violato anche un principio di uguaglianza. Insomma, dottor Bozzi, mi scusi, certo, parafrasando la famosa c'è sempre un giudice a Berlino, qui abbiamo sempre 15 giudici alla consulta che bocciano le cose, no? Che popolarmente sì. vengono considerate una cosa di un'equità sociale, come ha riconosciuto anche lei. Ma vede, il problema è uno, secondo me, come ha detto adesso l'onorevole, il senatore Santini, sì. Santini, credo che i politici, diciamo genericamente i politici, siano rivolti, la loro attività sia rivolta a soddisfare delle esigenze di carattere economico nei confronti, come ha detto sempre il senatore, nei confronti delle persone che hanno meno sì, reddito, sì. un reddito inferiore. E quindi? Ma qui parliamo di dal punto di vista giuridico, siccome la consulta, cioè la Corte Costituzionale, ha dichiarato che la pensione non è un regalo, non è un di più, ma è un trattamento economico, sì. cioè è un trattamento differenziato, diciamo così, nel tempo. Allora c'è stata la violazione sia dell'articolo 52 sì. della Costituzione e sia la violazione dell'articolo 3. Ma lei me li snocciola così. Senatore Santini, la questione è molto basica, è questa. Sono stati, non voi, ma provvedimenti simili sono stati bocciati in passato. Presidente Bozzi, che qui promosse quella causa insieme ad altri magistrati, dice la promuoverò sicuramente se diventerà legge. Senatore, posso rispondere? Certo, qua la questione è questa. Senatore, dica. Allora, io inviterei, naturalmente poi la libertà di azione è assolutamente garantita nel nostro paese, inviterei però a una riflessione il nostro interlocutore. Allora, tornando alla questione della precedente sentenza, sicuramente uno dei problemi viene risolto con questa nuova, diciamo, impostazione, perché diceva la sentenza manca la solidarietà, perché in effetti quelle risorse nel precedente provvedimento erano destinate indistintamente, cioè non avevano destinazione se non un generico riferimento al bilancio pubblico. la norma in questo caso è molto mirata esattamente all'interno del meccanismo, diciamo, di trattamento previdenziale e assistenziale, quindi si rivolge proprio a dare, e quindi le risorse rimangono nell'ambito. Quindi stavolta diciamo l'ambito solidarietà sarebbe salvo, che, ecco. E faccio riferimento soprattutto ai meccanismi relativi al trattamento delle persone con davvero livelli più bassi di pensione, insomma noi parliamo di pensione integrata al minimo, parliamo di problematiche relative a chi ha perso il diritto alla pensione per il cambiamento delle regole, parliamo sì, ma lei senatore non deve convincere il presidente Bozzi, dovrà convincere la Corte Costituzionale, perché come sa in Italia poi un ricorso ci sarà e lo bocceranno, secondo me lo bocceranno, senatore. Non credo. Comunque farà una valutazione poi dal punto di vista del tema invece dell'uguaglianza. Sicuramente c'è una situazione diversificata, però faccio notare che sui cosiddetti altri ricchi, cioè sulle persone che hanno redditi diciamo oltre una certa soglia, sono stati fatti ricorrentemente sia, e ci sono anche in questo provvedimento, interventi analoghi. Diverso è il massimale da cui partono, sì. E questo ovviamente attiene a un principio anche che riguarda il rapporto tra reddito in attività e certo, reddito diciamo però, in quiescenza. Facciamo così, fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità, riprendiamo tra qualche minuto con Giuseppe Bozzi, con il senatore Giorgio Santini del Partito Democratico. C'è da dire che ieri il giornale ha raccontato questa vicenda dicendo: ah, si sono dimenticati una cosa, hanno fatto il prelievo di solidarietà che vale per tutti, quelle pensioni con i tetti che abbiamo detto, ma si sono dimenticati di includere i vitalizi degli ex parlamentari. Con lei il vice ministro Fassina dice: è vero, ce lo siamo scordato, al Fatto Quotidiano, è vero, non giuro, ha detto ce lo siamo scordati, ma adesso provvederemo a rimediare, è stata una distrazione. Prelievi alle pensioni, ma non per tutti, guarda, quelle degli ex parlamentari per sfiga, per dimenticanza se le erano dimenticate, ma adesso rimedieranno. Riprendiamo tra un attimo. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:40 minuti. Allora, cari ascoltatori, stiamo parlando di questo contributo di solidarietà da prelevare alle pensioni cosiddette d'oro con il senatore del PD Giorgio Santini, con Giuseppe Bozzi. Dottor Bozzi, io le devo leggere alcuni dei messaggi. Guardi, le leggo i messaggi più edulcorati che sono arrivati. Che egoista. Spero spenda tutti i soldi della pensione in medicine. Si vergogni. Questo magistrato è esempio dell'egoismo italico. Quante storie per poche centinaia di euro. Ma insomma, voi avrete tutte le ragioni del mondo, ma non si rende conto dell'impopolarità della sua posizione nel dire farò ricorso anche stavolta? Io mi rendo conto dell'impopolarità della norma. È assolutamente impopolare. No, impopolare, insomma, no. Mi scusi, se mi riguarda scusi. 100.000 persone sarà no, più. No, mi scusi. Bisogna tener conto di quello che ha detto la Corte Costituzionale. Ancora. Va bene. Secondo la Corte, dice un giornale che io ho qui sotto gli occhi, secondo la Consulta, mi scusi un momento, sì. Avendo la natura tributaria, quella imposizione sì. Non garantisce il rispetto del principio di fondamentale di ma d'accordo, uguaglianza. Ma questo è il motivo per cui è stata bocciata, no? No. Io dico che è impopolare, nel senso, lei se scende in strada e chiede a 100 persone che incontra sì. Oggi, lei prenderebbe da 100.000 pensionati in Italia un piccolo contributo per aiutare le pensioni minore? Guardi che le direbbero tutti, ma certo, perché incontrerebbe persone che guadagnano di pensione meno di quelle soglie lì. La interrompo. L'avvocato Tal dei Tali, che ha uno studio che sicuramente gli fornisce un vantaggio economico perlomeno 5 volte migliore sì. O maggiore sì. Del trattamento economico dei magistrati, non è toccato. Il principio di solidarietà, il commerciante Tal dei Tali, sì. Il quale ha un esercizio che gli produce ugualmente milioni non viene non toccato. È toccato. Oh, e le dico altri, i notai. Perché i notai non vengono toccati? I notai guadagnano più di tutti. Ma perché non è, ah, perché dice non hanno. Beh, ma perché non, non ha toccato nessuno, c'è un principio. Mi scusi, c'è l'articolo 3 della Costituzione. Parla del principio di uguaglianza. Sì, ma, no, allora, ma lei è impopolare nei confronti dei pensionati che guadagnano 600 euro al mese di pensione. Ma a me non me ne importa, io non dico di non doverlo pagare. Dio me ne guardi. Io non ho detto che non lo dobbiamo pagare noi, noi magistrati, noi pensionati. Ho detto che a questa questione, a questa diciamo funzione che svolge questo pagamento devono partecipare tutti i cittadini, tutti. I quali abbiano un reddito cosiddetto superiore. Ma vede, no, ma vede in questo, però mi scusi, perché io il senatore Santini so che lo devo lasciare. Allora, poi Bozzi, continuiamo su questo, anche se, ripeto, sembra quasi un dialogo un po' tra sordi. Sente poco le ragioni di quelle che le espongo io, che sono le ragioni dei, credo, molti cittadini che mi scrivono anche messaggi. Senatore Santini, però, questa vicenda, nel concludere, nel salutarla, nel salutare lei, questa vicenda che sono stati esclusi i vitalizi dei parlamentari, è vera? Perché il vice ministro Fassina ha detto che è così. Allora, è vera e va rapidamente però sanata. Superata. Come è possibile che ve ne siete dimenticati? Posso spiegarmi? Sì. Guardi, io sono da 6 mesi in Parlamento, sì. Quindi l'ultima cosa che voglio fare è difendere privilegi ingiustificati. Allora, non è questa cosa va fatta, non è la legge di stabilità che può fare, perché è una cosa, è un provvedimento che va fatto attraverso un provvedimento specifico del Senato e della Camera, che adatti, ecco, sì, perché c'è l'autonomia. Bravo, va sicuramente fatta, assolutamente. Anzi, noi nel preparare la proposta avevamo anche esplorato la possibilità di farlo appunto con legge di stabilità. Non si può fare per il motivo che l'ho detto, i tempi erano, come lei sa, molto stretti. Comunque, una volta che questa legge sarà legge, se sarà confermata alla Camera, immediatamente, stavo per dire automaticamente, ci sarà un provvedimento autonomo di Camera e Senato che andrà a estendere queste norme esattamente nelle forme anche vitalizie. Speriamo che lo facciano, cioè l'impegno è che la politica lo faccia, perché sennò guardi che poi la gente si arrabbia davvero, cioè, perché siccome hanno l'autonomia, volendo potrebbero dire no, noi abbiamo l'autonomia, non lo facciamo, per quel che riguarda. Alla questione degli altri redditi, come diceva in modo non infondato il nostro interlocutore Bozzi, io rispondo come rispondevo prima, cioè si è scelto di finalizzare questo intervento all'interno del sistema previdenziale, quindi si agisce sul sistema previdenziale per aiutare poter il dare risorse nel sistema assistenziale previdenziale. Questo è a nostro avviso un modo che supera l'obiezione. Però è il rischio, come dice il presidente Bozzi, che possa in qualche modo annidarsi lì questo principio di non uguaglianza per tutti, che poi quando un giudice della Corte Costituzionale o 15 giudici devono andare a scegliere nei cavilli siamo maestri nel trovare poi i modi per abbattere i provvedimenti. Io, senatore, la devo salutare, devo andare alle informazioni sul traffico e la ringrazio per essere stato con noi, senatore Giorgio Santini del PD. Rimane con noi Giuseppe Bozzi e qualche ascoltatore tra pochissimo dopo il traffico. Eccoci. L'ultima parte di 24 mattino, devo fare una precisazione perché uno mi scrive ma non dici invece dei giornalisti. L'ho detto all'inizio, il primo ricorso fatto da vari magistrati e dal gruppo romano giornalisti pensionati, quindi aprite bene le orecchie, giornalisti pensionati, è stato accolto dalla Corte Costituzionale. E se c'è una casta in Italia o tra le caste, certamente questa è quella dei giornalisti, quindi io non ho minimamente paura a dire le cose come stanno, è così, è un dato di fatto, per cui chi se ne frega di tirarmi in ballo, è un dato di fatto e non ho problemi ad ammetterlo. Vorrei sentire due ascoltatori. Costante da Varese, buongiorno Costante. Sì, pronto, buongiorno Milan. Dica. Sì, buongiorno. Una cortesia, io vorrei dire soltanto poche cose velocemente. Allora, la prima è se questi giudici che abbiamo della Corte Costituzionale debbano veramente andare a lavorare su Marte. perché questa è gente che non sa, non ha pudore. Io li vorrei guardare tutti e 15 in faccia e dire: ma scusate, ma quando Monti con la legge Fornero ci ha obbligato a lavorare 3 anni in più, questa gente dov'era? Non era un diritto anche questo nostro? Sì, e lei... se l'hanno tolto in una notte. Sì. Andiamo avanti. Adesso si sta parlando di pensioni d'oro. Benissimo, ma qui Milan, il pesce, cioè l'Italia, il pezzi, scusi sono un po' sì, emozionato. Accalorato anche. No, in Italia il pesce puzza dalla testa. Dobbiamo renderci conto che tutti, da Napolitano in giù, dobbiamo metterci un pochino di buona volontà e dire: cambiamo questo paese, se no non cambieremo mai. Lei dice sono gli stessi giudici che bocciano in nome della Costituzione, ma che poi perché le pensioni, ma poi quelle cifre riguarderebbero loro. Dire, mi hanno detto: per i tuoi figli, per un futuro dei tuoi figli ti facciamo lavorare 3 anni in più. Nessuno ha detto niente. Compreso voi giornalisti. Beh, no, abbiamo denunciato. Quello che possono fare i giornalisti è informare e semmai denunciare. Dopodiché, Costante, io accolgo e raccolgo il suo sfogo e in parte lo condivido anche. Vorrei andare a Lucca da Pino. Lucca, buongiorno Pino. Buongiorno Mila. Ma io credo che questo teatrino sia insopportabile. Fa bene la Corte Costituzionale a bocciare questo contributo di solidarietà per le ragioni dette e anche per una questione di insopportabilità dei provvedimenti tampone estemporanei. C'è la Carta Costituzionale che dice all'articolo 53 che l'imposizione fiscale deve essere progressiva. Per quale motivo in questo paese gli scaglioni si fermano a 75.000 euro? Occorre rimodulare tutte le aliquote con nuovi scaglioni che vadano oltre i 75.000 euro. Però questo è un altro tema, se vuole, un ulteriore tema, cioè voglio dire, qui è il prelievo di solidarietà, cioè capire se è costituzionale oppure no. Sentiamo anche Gianni, grazie Pino, sentiamo anche Gianni dalla provincia di Firenze. Gianni, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io ponevo una questione di tipo diverso. Qui si è parlato tantissimo stamattina in trasmissione della disuguaglianza, uguaglianza di trattamenti di pensioni. Secondo me basterebbe una regola molto semplice per capire dov'è che si annida la disuguaglianza, sia dalla pensione minima alla pensione d'oro, stratosferica, chiamiamola come vogliamo. Sì. C'è una sproporzione enorme, ed è questa la disuguaglianza vera, tra i contributi che nell'ambito di una vita lavorativa si versano allo Stato e le prestazioni che si ricevono, diciamo, in età pensionabile, qualunque essa sia, 5 anni per i politici, eccetera, eccetera. Io probabilmente ho 41 anni, verso contributi da circa 20 anni. Rispetto al magistrato, rispetto al deputato, al senatore, avrò un moltiplicatore che sarà un decimo, un quindicesimo. E vabbè, questo perché adesso è cambiato la legge Fornero, ma questo per dire che cosa? Le cose purtroppo cambiano poi negli anni. Per dire che cosa, Gianni? Chiamate quello che si chiama comunemente il diritto acquisito, non si può toccare. Sì, sì. Hai il diritto acquisito di una pensione, ma io quando lo maturo il diritto acquisito, se via via che noi lavoriamo, lei è giovane, che ogni tanto ci spostano avanti la bandiera a scacchi, cioè ce la spostano continuamente, il nostro diritto acquisito, ma quando si acquisisce? Lei dice, Gianni, la sproporzione è che cambiano le regole, le regole che sono valse per le generazioni passate, come anche per la sua, Presidente Bo, non valgono più, non so, ha visto nottetempo con la riforma Fornero, hanno cambiato le cose, eppure non è che lì la Corte Costituzionale si è pronunciata a dire no, fermi tutti, questo è ingiusto, no, Presidente Bozzi? Cioè, l'idea è sempre che i potenti o comunque quelli che riescono a far valere i propri diritti li fanno valere e quelli che non ce la fanno, non ce la fanno. Ecco, ma il discorso, come non so se lei deve sentire altri... No, prego, cittadini. dica. Il discorso è quello che hanno detto i signori che sono stati adesso intervistati, è un discorso di carattere sociale, nel senso che naturalmente chi ha una pensione inferiore a quella, chiamiamola nostra, certamente reagisce perché insomma dice: ma questa gente addirittura nega l'obbligo della solidarietà. E su questo posso essere d'accordo. però devo dire a tutti quelli che stanno ascoltando che le leggi si fanno nel rispetto di due o tre principi che sono costituzionali, cioè sono stabiliti dalla Costituzione. Non è che se li inventano. Ma allora mettiamola, rovesciamola così: se facessero una legge inattaccabile dal punto di vista costituzionale, lei sarebbe disposto a pagare questo? Certo. Glielo dico assolutamente, con questa conseguenza che è favorevole a noi pensionati, diciamo così, nel senso che se c'è un numero superiore di contribuenti e di partecipanti a questa, diciamo, a questa manifestazione di solidarietà, anche la somma sarebbe inferiore. È chiaro. Perché più siamo a pagare, e meno paghiamo. Senta, ma mi tolgo una curiosità: per ricorrere alla Corte Costituzionale, cioè non è che ha potuto fare il ricorso lei personalmente? Chi l'ha fatto? No, glielo dico in due parole. Noi abbiamo fatto ricorso alla Corte dei Conti. Ah, ok. La Corte dei Conti, come lei sicuramente saprà, è un giudice, è un magistrato. E abbiamo sollevato la questione di costituzionalità, di costituzionalità nel ricorso che abbiamo proposto. Il giudice, cioè la Corte dei Conti, ha riconosciuto la fondatezza dei motivi. E quindi ha interpellato la Corte Costituzionale su questo. E ha rimesso questo provvedimento alla Corte, la quale si è espressa così. E comunque lei dice, se dovesse passare legge, passare come legge e passare in questo modo, faremo ricorso ancora, certamente, questo ci ha detto. Dottor Bozzi, io la ringrazio, torneremo evidentemente a seguire l'iter di questa vicenda, come ringrazio tutti gli ascoltatori. L'ultimo appello lo faccio domani dalle 14 alle 15, non va in onda il meglio di 24 mattino, ma saremo in diretta dalle 14, domani, in diretta. E dove? Saremo alla Fiera di Milano, al forum agenti.it, e potete venire a vederci, a conoscerci. Io sarò lì a condurre, Miriam Lucchetti sarà lì, Peter Bescapel Alpino sarà sui monti. Comunque siamo lì domani alla Fiera di Milano. Se andate sul sito radio24.it potete scoprire come partecipare nel pubblico domani alle 14. Non mancate neanche di seguirmi sul profilo Twitter Alino Milan, e poi non mancate anche lunedì alle 6:30 qui 24 mattino. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.